vs. Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Beh, buona serata a tutti, siamo in diretta di nuovo qua a This is Not an Exit, questa è Radio Città del Capo, diamo un po' di numeri che di solito non diamo, 051 24 19 10 per telefonarci in diretta e poi anche gli sms 348 76 49 289, buonasera dottor Scarpa. Buonasera a tutte e a tutti, oggi eccezionalmente parliamo di qualcosa un po' diverso dal solito, insomma, gruppo o genere o sottogenere. Parliamo di un regista e vabbè, perché oggi parliamo di un regista? Vabbè, adesso non è che ci spostiamo totalmente a fare una trasmissione di cinema, a parte che pure il nostro dottor Locane in compagnia di Ferruccio fino a pochi minuti fa parlava di nuovo di musica e cinema, ma è stata una cosa totalmente casuale. Comunque andiamo sulla falsa riga perché abbiamo appena sentito un brano dei Fugazzi, uno dei nostri gruppi preferiti e uno dei gruppi più importanti dell'epoca che di solito osserviamo, ricordo 88-93. I Fugazzi dedicarono un brano a Cassavetes. Io mi sono sempre chiesto da ragazzetto perché, anche perché non sapevo chi fosse Cassavetes. E quindi prima bisogna conoscere il regista, attore e quant'altro statunitense di origine greche e poi perché questo collegamento con la musica. Ricordiamo che comunque lui aveva un buon rapporto con la scena più jazz newyorkese che rock. Sicuramente nell'89, quando è venuto a mancare il buon Cassavetes, i Fugazzi già c'erano, ma forse Cassavetes non li conosceva, questo non è dato sapere. Comunque parliamo di un regista, uno dei primi, insomma, a fare un discorso davvero do it yourself nella Hollywood di quel periodo, e infatti, insomma, non è che la critica lo amasse davvero tanto, però lui, a furia di sgomitare, si è fatto conoscere al grande pubblico grazie anche ai due, insomma, fedeli attori quali Ben Gazzara e Peter Falk, ricordiamo, insomma, più comunemente come il l'attore Tenente Colombo. Il Tenente Colombo, il grande Tenente Colombo, insomma, Peter Falk e Ben Gazzara, appunto i due suoi attori preferiti, insomma, che faceva lavorare in quasi tutti i film. E niente, insomma, un regista che volevamo parlarne perché comunque davvero, se parliamo sempre di do it yourself nella musica, ci sta anche farlo nel cinema, anche se, insomma, Siamo ancora in diretta, sono le 21 e 13 minuti primi, parlavamo appunto di John Cassavetes, non vi stavate sbagliando, ma vi facciamo anche ascoltare i Fugazi. Dicevamo, il primo brano che abbiamo messo parla appunto di, è dedicato a Cassavetes e parla espressamente di lui come colui il quale è riuscito con la sua arte, con il suo modo di fare, a portare sua moglie Gina Rowlands, nonché protagonista e diciamo coautrice di implicita di quasi tutti i suoi film, è riuscito a portarla ad ottenere un Oscar a modo suo, appunto con una strategia che poi negli anni 80-90 il punk, la musica punk americana soprattutto, adottò. Il Do It Yourself si sarebbe chiamato dopo. Non penso che alla fine degli anni 50, quando uscì il primo il film di Cassavetes nel 59, si parlasse ancora espressamente di Do It Yourself, però lui e Jonas Mekas, che era un altro filmmaker di origine lituana e di New York, si associarono e cominciarono comunque a fare altri, a fare un cinema sperimentale e cercando di uscire dalle logiche hollywoodiane, non, senza scordarsi che in quel periodo, negli anni 50, le grandi major si stavano un po' spezzettando, ma le logiche rimanevano quelle, anzi molte case produttrici indipendenti poi venivano distribuite dalle major hollywoodiane a loro volta, quindi era molto molto difficile. La cosa paradossale che mi ha sempre fatto pensare era che le stesse dinamiche erano quelle dell'industria discografica 20 anni dopo. E la cosa ancora più divertente, diciamo, tra virgolette, è che praticamente il primo film, insomma, Ombre, è quello, insomma, più famoso dei primi lavori, che è appunto fatto fra il 56 e il 60, è concepito come un saggio collettivo e addirittura venne finanziato grazie a un annuncio sul New York Times e a una richiesta di finanziamento lanciata via radio in un corso di una trasmissione notturna via radio. Altro che crowdfunding. Quindi proprio parliamo dei fine anni 50 e primi anni 60, E, insomma, lui come saggio collettivo di recitazione e regia, perché lui aveva un rapporto privilegiato con gli attori, con i suoi attori. Lui sapeva che praticamente quando poi ne parlava con gli attori del film, e capiva insomma che gli attori volevano anche far tirar fuori la dignità di personaggio prima che di attore, quindi lui consentiva questo, quindi aveva un rapporto paritario insomma con i suoi attori. Continuiamo con i paralleli tra i Fugazi e John Cassavetes. Sembra quasi un calco la vita di Cassavetes e il suo modus operandi. Pensate che Cassavetes, per finanziare i suoi film, come dicevamo prima, cominciò con una raccolta fondi, ma non solo, spesso e volentieri dovette ipotecare casa sua. La qual casa era diventata negli anni, soprattutto con il film successivo Shadows, che fu Faces, Volti, dovette farla, ci impiegò anni e anni a realizzare il film, 5-6 anni, e nel frattempo la sua vita cambiò a tal punto che la sua casa stessa divenne di volta in volta ufficio di produzione, di montaggio, di ripresa, e gran parte della truppa abitava lì, sua moglie ovviamente, ma non solo. Era un modo per contenere i costi, e amplissimi se si fosse mai rivolto a qualsiasi casa di montaggio hollywoodiana. Nel frattempo si è trasferito a Los Angeles, e stessa cosa fecero i Fugazi. Ricordo che all'inizio la Discord Records nacque in una casa, i Fugazi in parte abitavano nella casa della Discord, i Rhodey stessi, e avevano il controllo totale. I Fugazi, lo ricordo nel testo Cassavetes, John Cassavetes aveva il controllo totale su tutto quello che faceva, e per averlo in una società dove il mercato lo faceva da padrone dovevi avere il controllo totale sul denaro. Se non ne avevi, dovevi fare di necessità virtù. Quello che avrebbe fatto il punk musicalmente, e quello che facevano Cassavetes e compagnia del New American Cinema all'inizio del 60 e fine 50, per appunto ridurre i costi e avere il controllo totale, fino appunto ad arrivare a livelli di quasi pauperismo, avere tutto in casa. E stessa cosa i Fugazi, avevano il loro furgone, avevano i loro Rhodey, avevano i loro mixer, e a volte noleggiavano addirittura, per saltare il circuito dei booking agent, noleggiavano loro stessi le sale dove suonare, dove fare concerti, se non trovavano centri sociali, spazi sociali oppure aule universitarie. Drag me right out. Past all the shit that I said, I'm saying, why don't you cut up my mouth? And I don't care what you use, just don't ask me to choose. I forced the fear to allow you. That's not so easy. We'll be right back. Quindi stasera John Cassavetes versus Fugazi, se vogliamo dire. Questo connubio fra musica e cinema, secondo me, è abbastanza azzeccato, visto comunque anche i riferimenti dei Fugazi al buon John Cassavetes. Ricordiamo, lui di origine greche, cresce insomma in una New York con dei fermenti cinematografici, ma non solo, la scena jazz insomma newyorkese la conosciamo bene. Tra l'altro il film Ombre, Shadows, la colonna sonora è di Charles Mingus, quindi davvero una scelta azzeccatissima. Poi, se vogliamo parlare dei criteri stilistici di John Cassavetes, e sicuramente il realismo, l'improvvisazione e addirittura un riferimento a Cesare Zavattini, allo Zavattini, oltre che regista, sceneggiatore, intellettuale. Vabbè, sì, tutto quello insomma di buono che si può dire di Cesare Zavattini, che comunque ricordiamo aveva lavorato con De Sica, e lui comunque John Cassavetes ne prende molto. E questa poetica del pedinamento veniva appunto chiamata, perché comunque il film prima di tutto va cercato nei mezzi pubblici, nelle strade, nelle piazze, è lì che nasce poi l'idea. E se pensiamo poi comunque agli esclusi del 62, con il primo produttore insomma major, il tale Stanley Kramer, insomma con un cast di prestigio, ricordiamo Burt Lancaster e Judy Garland, insomma, e alla fine lui un po' si apre, no? Il discorso, oltre che lo stile insomma zavattiano, c'è qualcosa anche che riguarda la Hollywood major. Però non vanno d'accordo Stanley Kramer e Cassavetes, perché per lui comunque aveva un po' dato, no? Qualcosa che mancava di personalità al film, e quindi il sodalizio muore di lì a poco. We'll be right back. 21:40 minuti primi, siete sempre in ascolto di This Is Not An Exit. State ascoltando i Fugazzi, ma questa sera blatteriamo un po' di John Cassavetes e di cinema. Non siamo proprio degli intenditori, però dato tutti i parallelismi che abbiamo visto e ascoltato, intuito in questi anni di ascolto dei Fugazzi, da cosa nasce cosa? E un altro parallelismo che mi viene in mente erano le critiche che tipicamente venivano, bersagliavano qualunque gruppo passasse da una piccola etichetta a una grande etichetta, a una major. Stessa cosa avvenne nel 1960, quando Cassavetes, dopo il magro successo di critica, no scusate, di pubblico, ma grande successo di critica, in particolare dei nuovi critici come appunto Jonas Mekas, decise di rimontare e rifare un po' Shadows, Ombre. Mentre all'uscita di Ombre, che era per gioco forza divenne un film estremamente sperimentale, senza una vera e propria trama, girato per le strade di New York, probabilmente poco digeribile per il grande pubblico, nonostante le sale di New York fossero state comunque ben ricettive, ma New York faceva storia a sé già negli anni 50. Beh, insomma, Cassavetes si decise di rifilmare in parte e di rimontare con una trama un po' più lineare il film, che per l'amor di Dio non divenne certo un film hollywoodiano. Spesso questi discorsi succedevano a tantissimi altri gruppi americani che a una certa, diciamo, i Sonic Youth, ma negli anni 80 ce ne furono tantissimi, i Replacement, gli R.E.M., gli Asker Du, tutti passarono su grandissime etichette e tutti furono attaccati. Pure Jesus Lizard, Guest Against Boys negli anni 90, quasi tutti, anche perché poi, come poi Cassavetes ebbe a giustificarsi dagli attacchi che poi lo stesso Mekas gli fece quando rivide il film montato, Mekas che lo intitolò come miglior film uscito nel 1959, ebbene, Mekas distrusse lo stesso film Shadows uscito un anno dopo, dicendo che praticamente lo spirito avventuroso e comunque avveniristico del film innovativo, scusate, era stato un po' perso. Cassavetes si giustificò dicendo che comunque l'ambizione di un artista, di chi fa comunque arte o comunque chi fa cinema, è quella di raggiungere un pubblico. Gli sarebbe stato forse più facile rimanere dalla parte dei suoi critici amici, come appunto Jonas Mekas, e dire ok, è il pubblico che non capisce, ma abbiamo ragione noi. E invece no, decise esplicitamente di rimontarlo e poi, come abbiamo detto precedentemente, per il film successivo fu chiamato da una major, anche se fu un'esperienza, come dire, fugace. Thank you. 21:53 minuti primi su Radio Città del Capo, This is not an exit, la trasmissione. Oggi facciamo un po' di un salto appunto nel cinema, quello più autentico, più autonomo, insomma forse più vero, anche perché lui comunque, Cassavetes, ripetiamo, aveva un rapporto davvero stretto con i suoi attori, perché lui diceva che praticamente com'è possibile fare un film appunto sulle persone e poi non avere alcun riguardo per le persone con cui si lavora, perché molte volte si vedono dei registi, prime donne, che magari bistrattano un po' i loro attori, no? Se ne è parlato tanto di questi tipo di registi. Lui era l'opposto invece, e parlava appunto ore con gli attori, perché bisogna dare, appunto, diceva, l'autonomia all'attore di vivere la propria parte e crearla sul momento, quindi proprio massima autonomia, fate quello che volete. E comunque è anche la scuola, appunto, che dicevamo prima di Zavattini, quella del pedinamento, sia come soggetto, sceneggiatura, e sia come lavoro in prima persona degli attori. Quindi davvero un regista collettivo, si può parlare così, no? Quasi, insomma. Anche perché Cassavetes era prima di tutto un attore. Veniva dal metodo, quantomeno l'epoca era quella del metodo, anche se Cassavetes non aveva fatto veramente la scuola del metodo di recitazione, che poi avrebbe fatto diventare grandi attori come Paul Newman o Marlon Brando. Però gli anni erano quelli, anche nel teatro di Broadway, che comunque viveva un ottimo periodo in quegli anni 50, gli attori avevano delle regole molto molto rigide che imponeva loro stesse di avere un'ottima disciplina e poi da lì impersonificarsi nel personaggio e imporre se stessi nel personaggio, cosa che lui riuscì a portare agli estremi anche nei suoi film, probabilmente perché aveva questa sensibilità teatrale. Non so quanto Cassavetes volesse fare cinema, probabilmente un po' come Orson Welles, anche lui attore che veniva dal teatro e poi passò per la radio e si improvvisò regista cinematografico. Il suo modo di fare cinema per certi versi era amatoriale, un po' come il punk nel 77. Ma c'era secondo te, Babe, il fatto che lui comunque fosse di origine greca, e quindi il teatro greco, un qualcosa, insomma, no? La correlazione col fatto delle sue origini? Questo non lo so. Sicuramente i suoi film sono molto molto emotivi e melodrammatici e spesso drammatici. Yeah. Beh, d'altronde non deve essere facile un film o un disco che parla dell'America o sull'America, cosa che sia Cassavetes che i Fugazi facevano ad ogni loro film. È difficile perché è un paese estremamente stratificato e esistono gli americani, ma in realtà hanno pochi punti in comune, che sono tipicamente dimostrare di avere coraggio fisico e senso di competizione. Questo più o meno ce l'hanno tutti, ma per il resto gli americani quasi non esistono. Immagino che negli anni 50 esistessero ancora meno di adesso. Hanno origini delle più disparate, centinaia di nazionalità diverse abitano e abitavano New York, e quindi è molto difficile definirlo e parlarne. Spesso Cassavetes parlava del fatto che lui non era ideologicamente schierato, perché per esempio sui temi di cui tratta nel suo primo film, Shadows, che sono per esempio quello dell'integrazione razziale, lui poteva parlare unicamente della situazione che conosceva, che era quella di New York. Non aveva un atteggiamento tipicamente americano. Molto difficile anche parlare di problemi sociali, anche se erano evidenti, ed era facile leggere nelle biblioteche. Stessa cosa facevano i Fugazi, come in una canzone come quella che abbiamo appena ascoltato, che si chiama 23 Beats Off. È una canzone che, se non proprio di primo acchito, comunque parla della impossibilità per un omosessuale di arruolarsi nell'esercito americano, una cosa che penso sia caduta, una legge che penso sia caduta solo di recente. esce, cara di esce, dice di esce, cara di esce. Per me i film non contano così tanto. La gente è più importante. Noi, i miei compagni di lavoro e io, cerchiamo una specie di verità personale. La rivelazione di ciò che siamo veramente, senza orpelli. Ogni giorno dobbiamo lottare per restare sani, per smettere di autocensurarci. Ecco perché, quando lavoriamo su una storia, anche fosse un puro melò, anche fosse la più semplice e banale, non la capiamo finché non assume per noi un significato personale vissuto. Non funziona finché non arriviamo a impegnarci personalmente in questa storia. Bisogna impegnarsi con le persone che filmiamo, con i personaggi che abbiamo scelto. Beh, le 22 sono passate da ormai 24 minuti primi, quindi This Is Not An Exit ormai è giunta al termine. Puntata piuttosto serrata, magari anche un po' atipica, speriamo di non avervi annoiato. E comunque ci rifaremo giovedì prossimo, sempre alle 21, sulle frequenze di Radio Città del Capo, ricordo 94.7 e 96.25, o streaming, come preferite. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutte e a tutti, sì, a giovedì prossimo. Ma poi perché ci dobbiamo rifare? Noi ci facciamo sempre, Babbo, non è che ci rifacciamo. Ah, tu, se qualcuno si annoiato, fosse mai annoiato. No, vabbè, ma i Fugazzi c'erano tutti, non è che è mancata la musica, anzi. Ma più serrata di così, come puntata, faccio fatica a immaginarmela, ma non si sa mai. No, abbiamo alzato un po' il livello culturale con, insomma, citazione di Zavattini, Cassavetes e Fugazzi, insomma, gran bella puntata, spero. Insomma, mi è piaciuta. Speriamo anche a voi. Buonanotte.